Questi suoni erano delle cose straordinarie, perché il silenzio era dominante, non c'erano. Allora, qual era il suono principale? Erano quelli che noi chiamavamo i fischi della manifattura. La manifattura aveva, diciamo, tre richiami al mattino. Alle 7.35, ai tre quarti e almeno 10, suonava una sirena, va bene? Quello lacerava l'aria, perché tutti si regolavano con col suono della manifattura. Era naturalmente un suono che serviva agli operai per dire: attenzione, che è già quest'ora, è l'ora successiva e quindi siamo ormai all'obbligo di entrata. Quello è uno suono dominante. L'altro suono che io ricordo molto bene: motociclette, ce n'erano pochissime. Io ricordo tre soggetti. Proprio in questi giorni ho visto il film Amarcord di Fellini. A un certo momento, se voi lo ricordate quel film, Fellini stesso ricorda quello lì con la motocicletta, no? Che passava nel paese, faceva il frastuono di questa moto. E la stessa roba qui. Quando venivano da Rovereto questi motociclisti, che ripeto erano due o tre, non dovrei fare così una ricerca anche di chi era, no? Anche se uno so esattamente chi era, e si sentiva il rumore della motocicletta ancora al cavalcavia della ferrovia. Tu sentivi proprio la moto che arrivava, non lo seguivi con finché poi te lo vedevi davanti. Per noi era come un eroe, un trionfatore, avere una moto era l'unica cosa che c'era. Macchine non ce ne c'erano, due autovetture a Borgosacco a quel tempo, quindi voi capite. Quindi i rumori erano quelli della manifattura, i suoni, che poi naturalmente si ripetevano al pomeriggio, quando uscivano gli operai, era quello delle 4 per esempio. Ecco, ma suono di fondovalle non ce n'era. Si sentiva invece da lontano il rumore dei treni che passavano, quelli sì, perché il ponte di ferro è sempre stato un ponte che dava rumorosità al passaggio, anche se, come ripeto, con i bombardamenti a volte il rallentamento, va bene, toglieva anche intensità al suono. Poi altri suoni delle fabbriche o di qualche attività che nel frattempo si cominciava a vedere, ad avere, non so, qualche falegname che accendeva la macchina per dire, per piallare o per tagliare, ecco, ma suoni molto, molto, diciamo, saltuari, oppure qualcuno che tagliava la legna. Un particolare d'estate, per esempio, qua si batteva il grano, cioè i contadini raccoglievano il grano e poi facevano arrivare quelle macchine che naturalmente battevano il grano, quindi dalla fascina, va bene, si tirava fuori. E queste avevano collocazione, per esempio anche qui in piazza, ma io abitavo un po' distante da qui, cioè quello che noi chiamiamo la Verza, no? Che poi vi dirò cosa vuol dire. Ecco, che poi era la villa di sopra, una delle piccoli agglomerati qua del paese. Ecco, lì ricordo quando veniva la macchina che batteva il grano e stava lì per alcuni giorni, i contadini portavano il loro grano, veniva battuto, veniva poi riconsegnato. Ecco, io non avevo, però da bambino noi lì ammirati a vedere tutte queste macchine, delle quali ne ho vista una anche non molto tempo fa a Castellano. A Castellano c'è una macchina, residuo di quell'attività che, infatti, se voi a Castellano lasciate la macchina lì vicino alla chiesa, poi fate una passeggiata per dire verso sud, andando verso il cimitero, verso il castello, sulla destra c'è ancora una di queste macchine, una penso delle poche che sono rimaste, forse ci sarà qualcuna al museo su di San Michele, però queste sono le memorie e quello che si può dire su quanto mi ha fatto come domanda. Ecco. Attività industriali non ce n'erano, voi capite, la guerra aveva demolito quel poco che c'era. La ricostruzione è avvenuta subito dopo, insomma, dopo la fine guerra. Grazie.